Work it, make it, do it, makes us in the media, stop the virus. Harder, better, faster, stronger. Il mondo dei media nell'era di Twitter. Our work is never over. Comincia questa nuova avventura di In Media Stat Virus. Io sono Francesca Clementoni e sono qua in studio con Pierluca Santoro. Buongiorno Pierluca. Buongiorno, buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti voi, bentrovati. Bene, intanto chi è Pierluca Santoro? Cominciamo a capire un po', a entrare nei meandri di questa nuova trasmissione. Pierluca Santoro è sedicente, esperto di marketing e di comunicazione. Mi occupo di questi temi dai tempi delle guerre puniche, giorno più giorno meno. Ho lavorato in azienda per 11 anni della mia vita nel marketing di grandi aziende. Dopodiché dal 98 ad oggi faccio il consulente e il formatore negli ambiti appunto della comunicazione, del marketing e sempre più, visto il procedere dei tempi, in quello che è il digital marketing, il social media marketing. Negli ultimi 5-6 anni, all'inizio per divertimento, poi anche per lavoro, sempre più ho provato a guardare e continuo a guardare con crescente attenzione il mondo dei media, visto anche dal punto di vista degli editori. E insieme a un gruppo di facinorosi, dall'inizio del 2014 abbiamo fondato proprio su questi temi Data Media Hub, che è appunto un contenitore che raccoglie tutte le informazioni, tutti i dati relativi al mondo dei media. Bene Pierluca, e per quale motivo abbiamo deciso di fare questa trasmissione? L'abbiamo chiamata In Media Stat Virus, si parla di comunicazione nell'era di Twitter, di informazione nell'era di Twitter, ma dove vogliamo arrivare con questa trasmissione che sarà lunga un anno? Ma perché abbiamo deciso di fare questa trasmissione? Ovviamente per rovinare il pranzo alla gente, vista l'ora, questo ça va sans dire, come dicono a Napoli. Ci ho detto, i motivi fondamentali che ci hanno spinto a creare questo mini contenitore su questo grande tema, direi che ovviamente non possono che essere il fatto che da sempre i media evidentemente sono un importantissimo influenzatore dell'opinione pubblica, non a caso in Italia, dibattito per l'ennesima volta anche di questi giorni, lo Stato, il governo, quindi poi fondamentalmente noi, ha sempre foraggiato i media, i giornali con i finanziamenti proprio, no, perché evidentemente alla fine forse c'era anche il bisogno, fra virgolette, di tenerli buoni, mettiamolo in questi termini, per usare un eufemismo. E quindi in un'epoca, nell'epoca attuale che stiamo vivendo, con questa grande evoluzione da una comunicazione mediatica che era di uno a molti a quella che è complessivamente invece l'informazione attuale, il panorama mediatico che è di many to many, quindi da molti a molti, ho creduto, e grazie per averci creduto insieme a me, a te Francesca e a tutta Radio Fujiko, che potesse avere un senso parlare di questi temi in maniera sia tecnica che anche sociologica. E nel caso i nostri ascoltatori non avessero il pranzo troppo rovinato, possono persino interagire con noi, Pierluca, giusto? Sì, volendo, attraverso Twitter è possibile interagire utilizzando l'hashtag IMSV Imola Milano Savona Varese 14 e twittando al mio account personale Pedro Array o ovviamente all'account Twitter della radio Radio Fujiko. Bene, siccome in questa trasmissione è prevista anche della musica, mandiamo il primo brano musicale e poi entriamo nel tema di questa puntata che cominciamo a preannunciare è comunicazione e politica. We'll be right back. Politica. Allora, la storia della comunicazione politica in Italia comincia con tribune elettorali, forse molti di quelli che sono in ascolto manco sanno che cosa sia, e oggi gira per i social network e su Twitter si è espanso tutto quanto, e diciamo che forse colui che ha cominciato questa pratica, almeno che l'ha resa più famosa, è stato Barack Obama. Sì, parliamo appunto di politici, politica e social media, e ovviamente non si può, per stare ai giorni nostri, che citare la celebre frase di Harper Reed, Chief Technology Officer, durante la campagna di Barack Obama, la campagna elettorale dell'attuale presidente degli Stati Uniti nel 2012, che appunto tra le diverse cose che ha detto riguardo al successo elettorale, cito testualmente, ha detto: la campagna elettorale di quest'anno non è stata vinta dalla tecnologia, alla vittoria finale ci hanno pensato Obama, il suo incredibile staff, le idee e il messaggio che è stato trasmesso al popolo americano. La tecnologia è stata soltanto uno strumento di supporto. Questo già ci dice quale sia in realtà l'orientamento su questa cosa. Allora, diciamo una cosa, in Italia rispetto agli Stati Uniti e rispetto ad altre parti del mondo più o meno vicine o più o meno lontane, la televisione continua assolutamente a padroneggiare e spadroneggiare per quanto riguarda la rilevanza e l'influenza della comunicazione politica, però ovviamente i social media sono sempre più uno strumento di comunicazione politica. Ti interrompo, che cosa cambia da tribuna politica appunto ad oggi, sia come modalità che come anche linguaggi? Allora, complessivamente i destinatari della comunicazione politica per lo più prestano un'attenzione relativamente scarsa e trattengono solo un'esigua frazione dell'imponente flusso di informazioni inviate dai partiti e dai politici con l'ampio ventaglio dei media tradizionali e dei cosiddetti nuovi di massa e social. E quindi la frequenza del messaggio, come in ogni aspetto comunicativo, da questo punto di vista la comunicazione pubblicitaria è maestra, non a caso la sua efficacia, uno dei parametri della sua efficacia misurata attraverso i GRP è proprio relativa alla frequenza della comunicazione, è maestra. Che cosa cambia? Su questo ci viene in aiuto una ricerca che è stata presentata a metà settembre all'Università di Perugia sullo studio del linguaggio politico in Italia da Stefania Spina. È stato analizzato l'indice di Kines, ovvero un confronto fra il lessico usato su Twitter e in televisione. Da questa ricerca emerge da un lato la forte differenza, nella ricerca sono stati censiti e analizzati per 5 mesi i tweet di una quarantina di politici, da Alfano a Vincenzi, andando in ordine alfabetico. Emerge come vi sia, prima di tutto per quanto riguarda Twitter, una grandissima differenza nella frequenza, aspetto di cui, argomento di cui appunto parlavamo prima, per cui si va da un Alfano che ha una media giornaliera di 0,93 Twitter, meno di un tweet al giorno per farla semplice, fino ad arrivare a Sarubbi, noto cronista con open camera delle vicende politiche italiane, che addirittura spara, nel senso buono del termine, ci mancherebbe altro, oltre 40 tweet al giorno e tutto quello che ci sta in mezzo, con De Magistris a una media di 6 tweet al giorno, Renzi, l'attuale presidente del Consiglio, come noto, che viaggia mediamente intorno ai 4,6 tweet al giorno. Poi su Renzi ovviamente ci torneremo perché ne vale la pena. Da questa ricerca emerge come per esempio alcune parole specifiche vengano più usate in televisione, mentre su Twitter ne vengono usate delle altre. Su Twitter si è parlato all'epoca più di Porcellum, mentre in televisione si è parlato più di lavoro. Su Twitter si è parlato più di disoccupazione, mentre in televisione si è parlato più di crisi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di differenze che ci fanno capire come in qualche modo ci sia, anche in funzione del mezzo, ovviamente come sempre accade, una necessità di adeguamento del linguaggio, un adeguamento del linguaggio che non è dovuto soltanto alla brevità, ai 140 caratteri ai quali Twitter ci vincola, ma anche ad altri aspetti. In attesa di sapere come i nostri politici stanno usando Twitter, andare proprio nello specifico di alcuni esempi in particolare, torniamo in musica e poi rientriamo in trasmissione. Words don't Comunicazione e politica. Come i politici italiani, andiamo ovviamente per macro esemplificazioni, stanno utilizzando queste nuove modalità di comunicazione, appunto anche a partire dalla ricerca che citavi, sono sempre più utilizzati, ma come? La vita reale, come sempre, è molto composita. Diciamo una cosa, se fino a poco tempo fa, diciamo fino alle elezioni del 2012, la comunicazione politica era concentrata soltanto nei momenti preelettorali, oggi invece i politici complessivamente, chi più chi meno, con tutte le eccezioni del caso, che stanno nelle generalizzazioni, però ovviamente iniziano a utilizzare invece i diversi social media, e poi in Italia fondamentalmente Facebook e Twitter, come sappiamo, in maniera più continuativa. E questo è l'aspetto positivo della loro modalità di comunicazione. Lentamente stanno, hanno imparato anche loro, o molti di loro, a usare, spesso assistiti da professionisti della comunicazione, in tal senso da spin doctor, a utilizzare questi media. Su questo argomento, peraltro, è uscito recentemente un libro di due giornalisti, Matteo Grandi e Roberto Tallei, che in un volume, questo libro che si chiama Arrivo Arrivo, ripercorrono la scalata di Renzi al potere attraverso la selezione e l'analisi degli hashtag, i diversi cinguetti, i diversi tweet dal primo dell'8 gennaio 2009 sino al, appunto, che dà titolo al libro, Arrivo Arrivo, lanciato il 21 febbraio 2014. Diciamo una cosa, Renzi sicuramente oggi, per quanto riguarda la comunicazione politica, fa scuola ed è un caso di successo, con 1.250.000 follower su Twitter in questo momento. Sicuramente ha una grande abilità comunicativa e la svolge bene, in prima persona peraltro, a differenza di altri su Twitter, però poi anche lui non è esente da errori. È dell'8 settembre il caso in cui prima ha pubblicato un selfie su Twitter e poi l'ha cancellato perché è stato inondato di critiche e forse anche peggio da parte delle persone sulla piattaforma di microblogging da 140 caratteri. Questo inizia anche a dirci una cosa, che la comunicazione su internet e la comunicazione sui social non si cancella, ne resta sempre traccia e quindi ovviamente va posta la massima attenzione da questo punto di vista a quello che si comunica. Uno che, ahimè, o per fortuna, a seconda di come uno la vuole vedere, di attenzione ne presta veramente poca è Gasparri, che è noto per le polemiche, per il suo accalorarsi, mettiamolo in questi termini, sempre per stare sul morbido, su Twitter, dove, per citare gli ultimi esempi, già quando l'Italia vinse la partita ai mondiali con l'Inghilterra, si scatenò in insulti contro gli inglesi, che gli valsero un articolo sul Guardian, in cui ovviamente gli inglesi e il Guardian non si complimentavano con lui per questo suo modo di fare, per arrivare al caso più recente, anche questo dell'inizio di settembre, dove addirittura, e questo è davvero straordinario da ogni punto di vista, è riuscito ad arrabbiarsi, a replicare al puffo brontolone che perfino io avrei capito che ovviamente è quello che odia tutto e tutti per definizione, e che quindi prendersela con lui aveva davvero poco senso. E qua direi che ci sta la canzone dei Puffi a questo punto, cosa ti devo dire, no? Cosa ne pensi? Va bene, mettiamo la canzone dei Puffi. Vai con la canzone dei Puffi. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu, sono alti su per giù, due mele poco più. Le Puffi siamo così, noi siamo Puffi blu, puffiamo su per giù, due mele poco più. Vivono via da qui, nell'incantata città, riparata dalla selva, dal deserto, dai monti e dal mar. Sono case buffe assai, i funghi di laggiù, nel bosco le vedrai, vicino al fiume blu. Puffiamo noi laggiù, i funghi puffi assai, puffarli tu potrai, vicino al fiume blu. Hanno un ponte che fa, attraversano per ricercar nella foresta quel che più gli serve, più gli dà. E via dalla città, amici hanno già, e senza esitar li vanno a trovare. Ma hanno anche dei nemici, Gargamella il mago e il suo gatto Birba. Maledetti Puffi, vi avrò e vi ridurrò in pure. Ma i Puffi hanno già 300 volte più scacciato questi qua, lontan dalla città. Brontolone mandandogli un tweet, e adesso appunto, partendo da questa gaffe molto divertente che ci raccontavi di Gasparri, invece parliamo seriamente di buone pratiche, perché con l'uso dei social si stanno implementando case studies e analisi per arrivare appunto a cercare di teorizzare un modus operandi abbastanza corretto, come avveniva nella comunicazione classica, di utilizzo dei social media. come sempre, appunto, sono temi nuovi o comunque relativamente nuovi, e quindi si fa esperienza e si cercano di dettare delle regole di buon comportamento. Da questo punto di vista, di recente, il 3 ottobre, durante gli Election Day a Torino, Dino Amendoni ha fatto una presentazione proprio su politica e social media, regole minime di sopravvivenza, che dà delle indicazioni che sono, se vogliamo, di buon senso, ma che restano comunque preziose e interessanti come regole generali, come piccole grandi attenzioni da prestare durante l'utilizzo dei social media per la comunicazione politica. Lui stabilisce 5 buone pratiche. La prima è quella che provavo a dire anch'io prima: ogni atto di comunicazione sul web è potenzialmente pubblico. Come si diceva prima, le persone prestano poca attenzione, e quindi lui dice: parla nel modo più semplice e didascalico possibile. Quello che forse, senza nulla togliere, è la più interessante delle 5 buone pratiche è la terza, dove lui sintetizza e dice: vuoi parlare direttamente agli elettori? Usa Facebook. Facebook, lo sappiamo, ha praticamente tutti coloro che usano internet in Italia sono su Facebook. Si parla di 23 milioni di iscritti al social network per quanto riguarda il nostro paese, quindi ovviamente è sicuramente il modo per parlare alla grande massa, è la televisione dei social, se vogliamo metterla in questo modo. Seconda cosa, della terza delle 5 buone pratiche, lui dice, e mi sembra ancora una volta assolutamente condivisibile: vuoi parlare attraverso i media? Usa Twitter in generale, e ancora più se possibile in Italia. Twitter è utilizzato invece da una fascia molto più ristretta della popolazione. Di questa fascia ristretta sicuramente i media e tutti i giornalisti sono ampi utilizzatori dell'uccellino blu, e quindi parlare attraverso Twitter è sicuramente un modo molto utile, interessante e efficace per far riprendere il proprio messaggio e poi mandarlo sui mainstream media, che siano la televisione, che siano i giornali, che sia i siti di informazione online. Terzo aspetto: vuoi parlare ai nativi digitali? Non dimenticarti di YouTube. YouTube, il canale video di Google che tutti noi conosciamo, è un mezzo molto utilizzato dai più giovani, e quindi sicuramente può essere ed è un media molto interessante per parlare alle fasce più giovani della popolazione. La quarta regola, come Amendoni ci ricorda: non dare la colpa agli stegisti o agli hacker. Se fai un errore, chiedi scusa. Tutti sbagliano ed è una regola aurea, sacrosanta. Come si diceva all'inizio, non iniziare a usare i social media a distanza troppo ravvicinata dalle elezioni, anche perché, al di là di qualunque considerazione etica o non etica, essendo questo un processo relativamente lungo, la sua efficacia nel breve è relativamente limitata. Bene Pierluca, il tempo a nostra disposizione oggi è terminato. Speriamo di essere riusciti a dare comunque un quadro di quella che era la tematica di oggi. Noi ci ritroviamo martedì prossimo. Di che cosa parliamo? Martedì prossimo alla stessa ora, quindi dall'una all'una e mezzo, ci troviamo ancora una volta qui per parlare di mainstream media e social media, ovvero del rapporto amore e odio che i grandi mezzi di informazione tradizionale hanno con invece i social media. Bene, salutiamo i nostri ascoltatori, li invitiamo a rimanere sintonizzati sui 103.100 di Radio Città Fuggico e gli diamo appuntamento a prossimo martedì. Arrivederci, un abbraccio a tutti. Ciao. In media, stop the virus. Il mondo dei media nell'era di Twitter. Our work is never over.